bagno, insomma era abbastanza confortevole, diciamo, era tutto all'aperto, perché un peschereccio ti puoi immaginare, è aperto, però d'estate si stava bene. Sì, sì, lo so, perché era una bella escursione quella, perché se stavi su potevi vedere tutta la costa lì che già è bellina, e in più c'era quella possibilità di andare sotto e vedere i fondali, capito, già era una buona cosa. Eh sì, purtroppo il turismo in questi anni con la pandemia è crollato dappertutto. Adesso quest'estate c'erano dei buoni segnali di ripresa, perché la pandemia speriamo ce la stiamo lasciando pian piano alle spalle, speriamo bene, e ci mancava questa guerra. Adesso praticamente devono ristabilire nuove rotte, perché con la questione della guerra alla Russia hanno chiuso tutte le rotte per l'Europa e non solo, anche da altre parti, quindi gli aerei che devono fare un sacco di giri, non si capisce più niente, guarda, una confusione nera. Le guerre, guarda, sono peggio della pandemia pure. Già lo credo. Poi speriamo che ci sia qualche mano dal cielo che vi faccia rimettere d'accordo, perché cosa allucinante. Ho visto una scena di questi bambini che spingevano i soldati russi, si incavolavano questi bambini, mi hanno fatto una pena, si incavolavano e li spingevano, non volevano che entrassero in Ucraina, capito? Sì, io mi auguro solo una cosa. Allora, praticamente Putin è un classico dittatore, vuole portare tutto come era il vecchio regime, riconquistare con le guerre queste nazioni che facevano parte tutto del blocco sovietico, capito? Ma questo ormai non è più possibile, questo è passato, è giusto un pazzo può attuare un piano del genere. Quindi alla fine io mi auguro o che lo facciano fuori, ma tanto Putin lo fanno fuori, i russi stessi e i suoi concittadini, perché quando una persona porta una nazione come la Russia, grande eccetera, alla guerra, allo sfascio totale, capito? Invadi una nazione che era autonoma, democratica, non faceva male a nessuno, se non qualche contrasto con questo Donbass per l'etnia russa eccetera, ma lì potevi fare un accordo, ti prendi quella regione lì, chiudi tutto e buonanotte. Invece però da qui ad attaccare un popolo inerme con ammazzando donne, bambini, uomini, insomma non va bene così. Io mi auguro che lo facciano fuori Putin. È condannato dagli stessi russi, è condannato anche da loro, capito? Anche perché lì ci sono ucraini che hanno vissuto in Russia, sono diventati grandi russi, anche se sono nati in Ucraina, però sono russi praticamente. Cioè, praticamente non sono d'accordo su queste cose qua, ma anche i russi stessi non sono d'accordo, perché hanno visto che stanno facendo una strage, non guardano se sono civili, se sono militari, non interessa nulla, loro buttano bombe a tutto andare via. Mi auguro che qualche generale così che ha un pochettino di animo buono che si rivolti e faccia capire almeno a un gruppo di suoi soldati di non avanzare, che ci sia qualche rivolta in quel senso lì, capito? Perché se fosse così magari vedrai o si ritira in buon ordine oppure alla fine inizia uno, iniziano in tanti a fare così, a girarsi. Gli stessi soldati russi dovrebbero dire ma noi stiamo ammazzando persone innocenti qua che non hanno fatto niente di male, non è possibile, si devono, cioè non credo che tutti siano pazzi, capito? Io capisco che un regime, se tu non fai quello che ti impone, ti ammazzano un familiare o ti ricattano in un altro modo, però io dico una cosa, se si rivoltano tutti insieme lo buttano giù questo imbecille di Putin. Ciao Mario, ciao. Ciao Mario, buonasera. Il discorso lo capisco anch'io e l'ho condiviso pure, perché tutti quei paesi fanno parte dell'est, diciamo dei paesi dell'est, ed facevano parte del blocco sovietico. Giustamente Putin ha visto l'avanzare delle basi NATO anche in quella zona, e un attimino giustamente lui ha detto detto non voglio i missili, però da qua fare una guerra, capito, invadere una nazione, anche perché la NATO cosa fa? Non te li mette in Ucraina e te li mette in Moldavia che è a fianco lì, cosa fa? Invade pure la Moldavia, cioè non regge più quel discorso che tu stai facendo. Anche io l'ho pensato quello ed avrebbe anche ragione, ma questo non giustifica una guerra, però che lui debba fare. Lui poteva dire non voglio basi NATO qua, perché io ho visto la cartina delle basi NATO e ho visto quanto si sta espandendo la NATO verso est, ma non solo verso est, verso tutto. Quindi perché la NATO si deve espandere militarmente e la Russia no? La Russia si poteva espandere, ma senza fare una guerra a una popolazione inerme, capito? Ehi, ognuno ha le sue idee, Mario, ci mancherebbe altro. Ciò non toglie che in questa guerra ci stanno piangendo bambini, gente innocente, che non stanno combattendo solo i militari, ma ci stanno passando anche i civili. Sì. Le ragioni che hai detto tu possono essere anche valide e anche io ho pensato quello, però da qua fare una guerra, si poteva fare la difesa dei confini e ostacolare l'avanzare delle basi NATO nei paesi dell'est, benissimo, ma senza fare una guerra, non era necessaria. Addirittura un Putin che minaccia il conflitto nucleare mi sembra anche un pochettino eccessivo e sta rasentando i limiti della pazzia, secondo me, a questo punto Putin, o forse si sta esaltando un pochettino troppo. Fatto sta che non è una buona cosa la guerra per tutti e per l'economia del mondo e per le persone che soffrono, insomma. Mera, va bene Mario, sì, ho capito benissimo, ma è giusto per dar spazio agli altri, adesso la chiudiamo così, magari un'altra volta lo approfondiremo sicuramente questo argomento, non mancheranno le occasioni. Mi sa che c'è rimasto Gianni e forse voleva entrare qualcun altro. Ma è attaccato? Adesso sì, già. Perché si sente un po' di compressione? Adesso abbasso un pochettino, dai. Quindi va bene, allora di migliore. Ciao Mario, dai, ci sentiamo. No, noi rispettiamo i pareri di tutti. Comunque anche io per gli americani sono d'accordo che sono quelli che cercano sempre le guerre, le cose. E quello ce l'hanno sempre avuto e sempre ce l'avranno. Ciao Mario, ci sentiamo alle prossime e anche noi tra un attimino chiudiamo, perlomeno io chiuderò perché poi mi guardo anche la partita, c'è la semifinale, io seguo il calcio, per cui per me diciamo una passione che non posso trascurare. Alle prossime Mario, comunque è sempre un piacere sentirti, per carità, esprimere le proprie opinioni e sentirle anche da parte nostra non guasta mai. Avanti Gianni. Ehi, dai, ciao Mario, ci sentiamo, buona serata, non c'è problema, ognuno la pensa come vuole, io il parere di tutti lo rispetto sempre. Avanti di nuovo, cazzo. Sotto fondo c'è il cagnolino che protesta già. Sì, sta protestando perché Basile 8 vuole scendere, capito? Questa è la mia avvisa che vuole andare. E io l'ho portato tutto il giorno oggi, stamattina, poi l'ho portato tutto dopo pranzo, l'ho portato lì, in quel campo che c'è di fronte a MD, quel campo che c'è di fiori e cose, bellissimo, c'erano tutti i fiori della camomilla, quelli bianchi, un prato pieno di quei fiori. Sì, sta iniziando un po' la primavera anche qua dove abito io, dietro tutto giallo, i fiorellini gialli nel prato, capito? Sì, questo è il sole che sta facendo sbocciare i fiorellini già, anche se di acqua ancora ce ne vuole. Sì. L'ho portato lì per farlo correre un po' e niente, poi l'ho portato dopo pranzo, quindi non è che debba andare, ma lui a quest'ora è un orologio, mi avvisa sempre a quest'ora, invece io spegni tutto che dobbiamo andare. No, è macuno, è metodi. pubblico, però sì, fa bene a protestare, fagli fare un giretto, va, che già ci vuole. E lo fa lui, lo faccio anch'io, mi faccio una bella camminata adesso, come tutte le sere, già fa bene camminare, dai. Anche stamattina mi sono fatto una bella camminata sulla Piazza d'Italia, tutto a piedi, da via Pascoli sulla Piazza d'Italia, quindi ce l'ho pronto anch'io. Bene, fa bene, anche io quando ho la possibilità di camminare a piedi, io arrivo sino a Predanieta a piedi, quando porto la macchina a fare il tagliando, ritorno a casa a piedi e vado a, non prendo mai il tram. No, io tram sono una vita che non ne prendo, non ne prendo più, sono una vita che non prendo tram, non so manco che tram ci va in quella zona, che tram va nell'altra, non so niente, tutto proprio sono full, mezzi pubblici niente, solo in macchina. E basta. Vabbè Carlo, dai, ti saluto che vado a prepararmi, che Tagio mi sta guardando, come dire, beh, ti decidi. Yeah, non ci sono problemi Gianni, vai pure, ci sentiamo alle prossime, anche io adesso chiudo perché sono le 8:05 e iniziamo a preparare per la cena, per cui alle 9 inizia la partita, nel caso ci sentiamo domani o alle prossime volte. Grazie del QSO Gianni, alle prossime, un saluto anche agli altri che sono in ascolto. Capo, un saluto a tutti gli ascoltoni, ciao, ci sentiamo Carlo. Buona serata e buona carica quando la fai. Ciao ciao. Ciao, alle prossime. Hola chicos. Trasmissione. Vabbè. Ciao. Non si va ragionendolo. Di muove, muove, cash. Fatto un paio di messaggi, Bobolino. Ehi, stavo parlando come giù stavo parlando, lo sai che cosa? Aspetta un attimo, c'ho il controllo. Ah, vabbè, c'è la volta in radio. Ciao. Ciao. Ciao, Emily. Ciao, ciao. Ehi, ti stavo dicendo, quindi? E quindi cosa? Kappa. Io è tornato alle 8, la stavo ascoltando il suo, sono entrato pure, ma non è che ci sia molto tempo, ma dopo Google Veggia già entro pure là. Fatto, ma ci sono certe ore che prendo un po' di QRM. Ma c'è altro QRM un po', vabbè, io l'ho installato l'antenna. Tipo Massimiliano mi ha dato un messaggio, cioè anche lui c'ha QRM alto sempre. E non si sa da dove proviene il disturbo. Questo lo facevano gli alimentatori, ma non lo faceva quello chiamato Gio Maria, il coso, l'alimentatore. Aspetta un attimo, tu arrivi, vai. No, proprio nell'atmosfera, Vai, fai lui. Ok. E beh, tu. E allora? Si è alzata l'antenna. No. C'è un po' di capo avanzato, se mi pare che si può pulire della biglielucci. 14,50 metri ne ho di capo. Se va bene. Adesso vediamo, se la mazza qualche soldo me la compro la matassa. Poi chi lo vuole me lo paga. Quanto ne vuole, lo vedo. Capito? Perché non lo voglio cambiare. Così, perché questo qua è buono, niente da dire, però è un casino. Quando dovevi fare il PL, cazzo, è un giramento di coglioni, è un giramento di balle. È un webturso, ma fa, non hai capito. Adesso vediamo, adesso quanto mi avanza. Faccio l'acquisto. Tanto costa, ho fatto 5 euro. Ah, vedi qua. Vediamo. Sono rimane lì su me, ma non trovo nessuno cosa che ha già bugato la cosa. Non c'è nessuno, Antonio. Io stavo pensando un'altra cosa, stavo pensando di, come si dice, di cambiarlo, cioè di fare una cosa unica, è fatta bene. capito, la bomba a 4 metri, boh. No, non ne gioco più. Sa quella roba? Eia! Quel di te? Che altro mai che funziona che è una meraviglia, però. Sempre bella. Un quadra, è a fascette pure quella, però è diversa da questa. È diversa, c'è il coso obbligatorio. Addirittura è diversa anche dove c'è l'affare. La vulcanizzata bene, ma poi tu fa l'entrare e va già, prende parecchio, eh? Beh, certo. E boh, adesso vediamo. Se ti alzi uno e uno stazionare, a buona 4 metri in varo, e dove si andrà bene. Tanto è leggera, non dovrebbe dare problemi, capito? È leggera e non... Non mi dovrebbe rompere le scatole, capito? Forse è l'unica. Ma ditemi, ho un bicantenne, se questo invece dov'è? Già vanno, già. Sì, certo che vanno. Non è mai come non ci portavi, però già vanno, voglio. Poi anche c'è una posizione buona, già si fa sentire, capito? Capo, è per quello che non io. Sì, ne ho, ma cavolo, ma non la vorrei manco piazzare, perché cioè, se non c'è il capo adatto, secondo me quei cavi R-54 perdono troppo di prestazione, non te la fa rendere bene. Lo so. Allora, Marto, ma c'è già Fabrizio, Marto, per quel cavoli lui si ricorda che è grigio, ma anche quello fa bene. No, ce ne sono di due tipi, è così e è grigio pure, ma una ftinuda, non è che... Comunque il capo conta molto nella ricezione e nella trasmissione, perché sembra così, ma ve la differenza. Senza dubbio, il capo conta molto, ma anche l'antenna, non tanto la radio, c'è il baracchino. Scappa. Io ascolto bene, ascolto. Capito. L'unica cosa che... L'unica differenza è che ho notato che... Questo per rendere devi darlo un pochettino di potenza. Per avere una resa ottimale, capito, in lontananza. Tutto lì è la differenza. Lo so. Ma di come devo stare più parlando? Come mai andrò? Adesso stiamo parlando di guerra. Ma come, che cosa di nuovo? Niente ne sai. Va a rompere le scatole con queste bombe nucleari, che ciumacco. Cioè, ma io dico, ma certi elementi perché non li arrestano, gliele tolgono queste bombe nucleari? Cioè, difesa di cosa? Difesa di distruggersi pure tu, perché alla fin fine se tu ti butti la bomba nucleare nel tuo paese, non è che sia tanto lontano, no? Se vengono i burudumi, quelle radiazioni sono micidiali, me. Per carità. Vabbè, può essere che sono rimane inviate tanto, comanda niente. No, la bomba, cioè puoi buttare quello che vuoi, a copia cosa. Ma la bomba nucleare è troppo malata, troppo devastazione fa. Cioè. Se la buttano lì, cazzo, il minimo si intende dai nobili, non da d'urto. Cioè, è una cosa troppo devastante. Lo so. Cosa vuoi fare, purtroppo? È un casino. Siamo nella merda. Io non si rende manco conto. Ma già muore Burueddo se rimane in Russia, non ti preoccupare. Perché quelle lì sono cose devastanti. E muoiono anche i suoi cittadini, muoiono. Invece di trattare di queste cose, no. E per migliaia di chilometri mi si espande quel cazzo di cosa. Lo so, cosa vuoi fare? Ci abbiano in culo. Cosa ti vuoi? Comunque adesso non ne stanno parlando. No, è troppo pericoloso, è troppo pericoloso, è in culo. Il problema è che con quelle porcherie lì, perché sono proprio cose allucinanti, sono. Da voi li veniamo pure noi, perché va a contaminare la roba, va a contaminare, dipende dove tira il vento oppure. Cioè queste cose sono cose che non dovrebbero neanche esistere. Perché ci va, cioè ce ne piangiamo anche noi, tutti quei tumori, tutte quelle cose, secondo te, sono le conseguenze delle schifezze che hanno fatto. Che signor Gasino, l'attacco russo alla sede della polizia ucraina, babbo, assurdo, un casino sta succedendo. Non vorrei scudere un paio di missili a Mosca, no? Beh, c'è la cosa sta degenerando, altro che. Sono proprio maledetti, sono. Sono in guerra e boh, non ne frega un cazzo. Non ne frega niente, ma suoniamo la macchina, come la fa? Non ci credo. È passata la macchina, c'era da sopra un carro armato, ti rendi conto? Fora di capo. Sì, io l'ho già vista, ma dice che ci sono salvati. Come cazzo fa a salvarti? Dice che si è salvato il tipo. Sì, mira che c'ha, tanto è impossibile. Non lo so, stavamo dicendo così, ma da dire al pare c'è di mezzo al mare. Quanto sa che stanno facendo sangue inutilmente, perché non c'era bisogno di fare queste cose. Ma uccide sua. Grazie, certo la macchina, l'ultima. Ti rendi conto? Aspetta che lo pubblico. Ho già visto quel filmato. Ah boh, che cosa si? Sei in macchina di chi c'è bussicca? Quello lo fanno i schivermi schifosi, lo fanno gli infame. Certo. Ma infatti, di chi c'è niente, non sai cosa dovrebbero fare. Dovrebbero prenderli e processarli e ammazzarli lì stesso. Come ti hanno invato anche i dittatori tutti. Perché lui Putin è da prendere e impiccare. Mettere la corda e lasciarlo andare davanti a tutto il mondo. Perché una persona delinquente così non può esistere. Che tu ammazzi dei civili, delle brave persone che non sanno andare a comprare le scatole. Cioè, ma stiamo scherzando cosa? Al di là di tutto si potevano risolvere i problemi, invece hanno fatto i vigliacchi. Lo so. Che roba. Lasciali fare altro, fregato. Il problema è che hanno aumentato tutto. Cazzo, le bombole hanno preso un'impicchiata a me. È un bello. Eia! Già te lo faccio vedere, c'ho il decreto della materia prima, le cose ti faccio vedere. C'è la bomba a 15, sai quanto goccia va a portare da casa, perché come facciamo? Perdiamo soldi, 39 euro goccia a me. Cioè quella da 15 ha aumentato 2 euro qualcosa, quella da 15, quella da 10 quasi 2 euro. Chissà da 20 ha aumentato più di 3 euro, quella da 25, quasi 5 euro d'aumento, ma come si fa? Perché c'è un limite al 22%. La valera mi tranquilli, no? Non vi rompete le scatole. Sei abbigliano in luce, tu, sei aumentata. E cosa fai? Purtroppo cioè purtroppo devi anche lavorare, cosa fai? Lo so. Cioè, un bel casino, cioè, devi lavorare, ora siamo una faccia in terra, puro. Purtroppo però bisogna tirare avanti. Io lo so. E tu non ti adananzi. Poi cosa succede? Che ne consumano sempre di meno, a chi uno si vuole una gobbetta e l'altro sta bene. È un casino per noi, poi cominciamo al declino, la travaglia sempre di manco. Cosa qui va, nuda. È un casino. Ah, ma indica, sono nominati? Sono nominati, io la vedo qua. No, mi hanno invitato in un gruppo, dovevo scrivere il mio nominativo, io il nominativo non ne ho. Vai, ci ne dà, Mito. Non vorrei dito, tu non me la tipo. Comunque, qua c'è sa, ti stavo dicendo. Comunque stavo ascoltando l'altro giorno. Ci sono ancora le stazioni on the media. Capito? Quella che trasmette in tutto il mondo. Ah, sì, sì. Cavolo. Certo, ci sono stazioni che qualità le stanno togliendo, però sono ancora interessanti. Sono perché trasmetti tutto il mondo. Vediamo come si cambia questa cosa, vabbè. Una volta che si calma la guerra, poi riprende il Covid. Abbiamo un guru su Covid. Cristianca, la verità. Vabbè. Cosa vuoi farlo? Lo vuoi fare nulla. Ve ne esci di Gabo venendo in storia. Non è possibile. Che Dio c'è la mandibona. No, tra chi si batte il criminale che mi sono in giro, guerre e cose batteriologiche, cazzo, non ne capiamo più pede. Credevo che nel 2022 eravamo un pochettino più tranquilli, invece sempre più mondezza, cioè. Lo so. Non possiamo fare niente. Se sono queste le cose così brutte nel mondo, veramente, ma sono un po' tranquillo, cioè, sta cercando di mettere un po' di ordine, è la guerra dei pazzi, cioè, perché è la guerra di gente pazza, criminale, cioè, non ne vorremmo più guerra, è vera guerra. Lo Stato fantastico si mette la guerra, inizia il Covid, poi di nuovo inizia la guerra e il Covid si blocca. Ma chi su Covid passerà la storia, nascerà un'altra cagata. Lo so. Oi, cacca, quante scemenze che ho sentito ultimamente, gente Bogusana e Gabbo. Non è entrato nessuno? Sì, c'era Gianni stasera, Carlo, un po' di gente. Ho capito. A voglia. Io che non c'ero, vabbè, giù non ne attacco, me ne affutti nulla, no. E se no poi sto giù e qua, Ma non vuoi da? Sì, no, sto staccando io. Ah, ma la penna ancora pura? Sì, lo devo staccare, Andrew. Ah. Vabbè. Cavolo, non l'abbiamo mai compreso. Chissà come ti arrivi in città. Buonasera. Buonasera a lei. Mi stavo parlando senza antenna poco fa. Questa strada non mi sentono. Va bene, buonasera a tutti, dai. Oi Tino, buonasera. Ciao Anto. Stavo chiamando, ma ero senza antenna, che ero con questo apparato qua. Ebbè, se tu non si muove l'antenna, come ti potresti indirti? Vabbè. È bello, Gariello. Ebbè, ti lo muccolo. Ja, vai bene, ti alla grande. È un barattolino, è questo, 4 watt, tranquillo. Cosa vuoi, non vedete, sì, di più vuoi arrivare. Se vuoi arrivare di più, attacca. No, è una scatoletta di sigarette, da quanto è piccolo. Più belli sono quelli, sono tubi. Ma guarda, al LED, no. No, questo ha lo smitter, è un Intec, che te lo dico, ce l'ho, sto lontano. Allora, questo qua è uno M340S, Intec 340S. Ma lo sai che esce bene, esce. Oh, anche su ti sentivo. Vabbè, ma questo non era su, questo è... questo con l'antenna con la mantova. Questo è un apparato, credo che abbia, non voglio esagerare, ma più di 40 anni, se non di più, Anni, allora, c'è scritto qua. Aspetta, te lo dico subito. Credo, questo qua lo sai chi lo usava, Luca? Tu l'hai conosciuta, Super Pila, te la ricordi? Chi? Quella che abitava più giù di te, dove c'era quel rivendita, se non sbaglio, di giornalini di Aburichi, questa roba qua, se non sbaglio, Ma aspetta, l'Intec, ma c'è 34 canali, c'ha solo AM, c'ha giusto, e poi c'ha il filtro AN, vabbè, un tastino, tre manopole, compresa quella dei canali. Sì, nero. Va bene, cavolo. È un bel di anni questo qua. Questo qua era un apparato che usavano uno in una campagna e uno lì più giù di te, ti ripeto. Varta, non so se te la ricordi. Manco c'ero. Comunque anni 79-80. Figurati. Sì. Lo stanno vendendo, sto dico quanto, aspetta, allora vediamo un po' qua, no, perché so, tutti, 43 euro lo stanno vendendo. Oh, neanche per l'appento di metterlo in vendita, no, un apparato del genere così. Poi un altro ancora, viene un altro che, cos'è questo qua, esce a vedere. Questo è uno Zodiac invece, con i LED. Quanti apparati c'hai qui? No, non ne ho tanti, è un robot 5C, no, niente di più. No, io ne ho tre. No, ne avevo quattro, con quello modificato, quello l'ho fatto fuori. Adesso c'ho il 3009, l'iPhone e il Mobico. Il Mobico me lo sto vendendo, non me ne posso nulla. Se qualcuno lo vuole. No, ne ho 9 col grande, dai. Se riesco a darlo, avanti a tu. Capito. Il Mobicom è bello, no, io ne ho 9 con quello grande, ma sinceramente, insomma, non sono così, giocattoli qui, sì, L'ho usato anch'io lo Zodiac, quello lì, andava bene. Cappa, oggi c'è la Juventus, così è, sta giocando, contro chi è? Contro la Fiorentina? Sonno. Ciao Simone! Io mi ricordo c'era c'era la Carletto, senza strumenti era, però mi ricordo era una macchinetta di quelli da nulla, là. Andate, ragazzi, io vi mollo, che devo fare carica. Poi al limite, se ci siete, ci facciamo una chiacchierata, se no, alle prossime. Ciao, un abbraccio. Ciao, ti, ciao. Cavolo, comunque, qua seguo la Grand Play. Comunque qua arrivi benissimo. No, adesso sono a casa, sono dentro casa. Allora, la Grand Play vado quando faccio un po' di ascolto, quando devo fare qualcosa lì dentro, capito? Qua sono a casa, con Mantova, dai. Ciao, va bene già. Ok, là, va benissimo. Va bene, ciao ciao, divertitevela. Ciao ciao. Luca. Ehi, ehi, ciao Tino. E sto facendo un messaggio a tu. Ciao Luca, ciao. E quando una volta di tanto. Ciao. Non ne hanno. A quintali ne ha. Ah, a quintali ne ha. Juventus Fiorentina, io deve perdere. Andiamo, che Buonio, ci sei? Aspetta. Giù. Sì, mi ha scelto comunque di ultima qualità questo capo. Adesso vediamo, va. Cazzo, ma quanto è feo, gatto, mi manda a ghirla. Una certa persona, mamma mia. Break. Poi, avanti il break. Sì, ciao, buonasera, come va? Bene, come va tu? Era un po' che non ti sentivo. Dai, sempre impegnato, mannaggia, non ti sei, mannaggia, che mi sa che ve l'aveva già fatto. Perché Antonello, tu c'è Antonello? Eia, ciao, buonasera, in quanti siamo? No, no, l'ho acceso così e ho sentito, però non lo so, in quanti siamo? Sempre in tre, io, tu e Antonio. Dai, allora io vi seguo. Eia, dai, come va? Sto bene, sì. Tutto bene, tutto bene. Sai che lui ha aumentato, prima era 9 qualcosa, sei 9,20 Antonello. Davvero? Oh, no, non ho toccato nulla, no. Quasi 9,20 sì, da. Quasi. Guarda un po', quanto ti arrivo io, Antonello? Quasi 9. Ho sistemato l'antenna, quasi 9, vabbè sono 4 watt, 3 watt, 4 watt, aspetta Guarda se, aspetta, oh ragazzi, guarda se ho aumentato qualcosa adesso, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Sì, ho aumentato 9 e 10. Hai visto, tanto da, già funge, da. Capa, ma che va bene, caspita, ho voglia. Pure tu sei 9,10, a voglia che va bene, no? Io lo sento benissimo da Antonello qua, non ho nessun problema. Sì, anche io, la radio è sempre bella, uguale, o satura? No, sempre bella, uguale, anche Antonio, ce l'avete sempre uguale, bella. Tranquillo, 5, pulita. Da, ho sganciato, giusto per sapere un po', visto la distanza, va bene, da. Va bene, qui ne fai i buchi. Sì, ma l'interessante è sempre quello lì, a parte il segnale, l'interessante è che la radio arriva tranquilla, poi Santiago in più, Santiago in meno, non fa nulla, ma magari oggi c'è propagazione buona pure, perché io mi sento proprio bene. Non lo so, questo non te lo so dire. Vabbè, ho sistemato l'antenna, là, perché era attraversa male, non stava funzionando male, tutta rifatta a nuovo. Non lo so quanti anni farà, guarda adesso, se ne fa 10, se ne fa 15. Sì, tu sei stato in zona di mare, già via Yamania da chiusura. No, beh, chi su sì, la zona di mare purtroppo... Se non è protetta la rovina, non vettoria, digani i rubiconi, però Ossido lo mette. Certo se lo mette, a voglia. Lo mette. Ci la magna brutta la sassidine. La mia, vabbè, se non mi ricordo, 15 anni c'era su, 16, non lo so, è una balla. Comunque è stata tutta smontata, tutta pulita, come ha messo a posto una piccola. Tutta rifatta a nuovo. Stazionarie sono a posto, 1,1. Dovrò regolare un altro po', adesso vediamo un giorno, ne ho voglia, sago un attimo, l'abbasso, la mando un altro pochettino più su, la spirale, così è a posto, è perfetta, avanti anche tu. Già va bene, cos'ha? Cioè, va giù chissà di deposito, ma così muove. Proprio l'ago non si può fare per niente le stazionarie, no, non ne ho. Capito. Ma qua a me, Anto, a 10 non si muove proprio, 0, devo dire 0. È a 40, 1 e 2, 1 e 1 e 2. È a 45 poi mi salgono, quando aggancio 1 e 5 mi salgono. Agganciato però, Cazzo, ma che dire con una caduta di culo? Nato mi sapete, è nato, Giulia. Sì, a chiedere con me, Giulia, la mia ruscia da voi. Vediamo a voi si tene un po' caretto. Adesso l'amplificatore mio è nato, Giulia. A proposito, stava nascendo un poco. Puro signore Drati, però devi un po' caretto andare che si valvole, se no. No, visto sì. E tu che antenne avessi a posto? Io, la matto fa 5. No, vanno bene comunque quelle antenne. Io ce l'avevo, ho comprata nuova e poi c'è stato tutto quel periodo che non si parlava più, non c'era più nessuno e erano le gaggiobatte di darla, si era rovinato un radiale forse e poi mi hanno chiesto antenna nuova, lo sai perché? Perché io prima di piazzarla l'ho tutta vulcanizzata, tutta però, tutta compresa la molla, tutto, e tu dovevi scrivere che non avevo bugato tutto quanto il vulcanizzante sotto era nuova. L'hanno vista l'intera, grazie, mi sono attaccati, La verità che voi l'ho regalata, è stato anche un errore. Era nuova, Anche la mia, nei radiali c'era ancora cosa originale. la vulcanizzazione, ma c'è su, c'è nei pezzi, là, nell'innesto lì era un, c'erano, non era ruggente, era un po' ossidata, sì, le fascette un po' arrugginite, comunque le ho messe nuove in acciaio, le fascette, come si dice, no, adesso è tutta fatta a nuovo, praticamente quando l'ho piazzato ho messo un palo così, là, ho fatto una cosa un veloce, il palo si è arrugginito, dove tu innesti il palo lì, era tutta impaccata, infatti questo amico me l'ha fatta tutta nuova, mi ha messo il pezzo nuovo, adesso è perfetta. E nei radiali, guarda, ancora, per avere 15-16 anni, non lo so, più o meno, se sono 15, se sono 16, è ancora nuova, se vuol dire nuova, perché la vulcanizzata va bene lì. Sì, sì, però lì dove entra il palo? Lì dovresti mettere un tubo zingato. Io uso sempre il zingato, neanche l'acciaio, quasi più delle volte si usava un pezzo di coso d'acciaio, l'innesto. Però se tu trovi quello zingato, quello grosso, io vado giù su grosso, ma può durare 50 anni, non l'ha mai attaccato il sale, mai. Invece l'antenna pure l'avevo fatta tutta coperta con il vulcanizzante, io non la giocavo del vulcanizzante, che l'avevo scesa, era nuova, bella, alluminio, bello, non vi è nessun problema, anche il piede sotto dove entrava il tubo, nuovo, ha gimbulicato il tubo e tutto, e funzionava bene alla grande, ma è un problema, è nulla. Purtroppo, con questi accidenti delle cornacchie, che non sanno di cazzo, buoni si possiava a me, l'umanzano, poi da me l'azzo in una futta, cazzo, è nata del radiale, vai da. Ma c'è la mia, poi non mi hai visto, e poi vabbè, se si appoggia te li spacca. Vabbè, dai, diciamo che la mia, per avere l'età che ha, è abbastanza nuova, dai. È abbastanza nuova, tutta pulita, l'ho pulita con la lana d'acciaio e CRC, lucida, è perfetta. Adesso non lo so, se fa 10, se fa 15, se fa 5, vabbè, diciamo che qua da noi in città non siamo proprio in zona di mare, dura di più, da voi un po' di meno, a meno che li fai, come si chiama, la scende ogni anno, te la pulisci, una revisione ogni anno, allora sì. Sì, no, su quello non si discute, figurati, in paesi come siete voi, assolutamente no. Quindi io sapevo che tanti anni fa, una volta all'anno, più delle volte la scendevano, gli facevano le manutenzioni, eccetera. No, io no. Io prima davvero ero proprio di fronte al mare, il mare ce l'avevo a 200 metri praticamente, quindi ero in ghiva vicino al porto. Non ho mai avuto un problema. Quando l'avevo tolto da lì, perché poi mi dovevo spostare, c'era la mantova 1, ma la mantova a livello di alluminio è robustissima, e poi anche quelli l'avevo data, avevo preso la mantova 5, che c'era la mantova 5, e poi qua dove mi sono spostato è andato via, benissimo, non mai ho avuto un problema, mai nulla. Giustamente se la lasci scoperta, lì la parte ossida, perché qua quando tira quel ventaccio il sale se lo porta, e addirittura si mangia lo ferro, figurati. Lo so, avanti Anto, la bombolina si è drummito, mi sa. Vabbè, finché dura, praticamente a me si era staccato, dove tu avevi il piede, lì si era tutto aperto, ed era tutta canta pratica. No, non mi sono drummito, da giù mamma e poco godo nel ricare, vai, non la mara. Ci sono piazzato correndo, era in bagno, un attimino, e via. Dai, bianco per me un attimino, ci sentiamo dopo. Tanto fai. No, lì guarda, le antenne oggi è un po' un problema, perché secondo cosa compri non serve a nulla, bella, ti posso assicurare, la Sirte, la 2000, quella dorata, quella reggeva molto la salsedine, l'altra no, l'altra la massacreggia, poi di Ghianeghi di Vivoni e così, ce l'ho avuta quella lì. L'intacca, non vedi niente da va, il sale il cazzo lo aggredisce proprio. La mantova è quella che reggeva più di tutti. Che ci c'avevano tutti, che era chi più chi meno, chi era più al centro, chi era più verso la campagna, ma tutti quanti, perché prima la Dose era pieno, ma erano tutti quanti Mantova da qui a Vini. Sì, è vero, all'inizio era tutta Mantova, è vero. Sì, vabbè, comunque siamo riusciti a, cioè è riuscito a sistemarlo, ma sì, il pane è zingato adesso, l'ho comprato dalla Bricone, preso lì, ma più che bene, guarda, e la base di sotto non si è zingato, su quei pali che usano nei campi di calcio, dai, giusto per farti capire. E va benissimo. Prima mi veniva un po' male tornare giù da solo, cioè farla scendere, perché non era, praticamente avevo bucato parte in parte, avevo messo un bullone, ne ho messo due anzi, una in cruccio, dai. E buttarla giù da solo mi veniva un po' male, adesso che ho il palo telescopico, mollo i dadi, cioè i bulloni la butto giù tranquillamente, senza problemi. Prima mi veniva un po' male, però ti posso dire che il palo che si è arrugginito, quello che andava a innestare nella Mantova, no? Che l'ho messo nella base, quello lì è uscito subito, no, Britta? Ma dall'antenna l'ha dovuta tagliare, che non usciva proprio, era proprio frate, gudretto. No, quando si legge la tagliare è un casino, non è luoghi. Io ho dato la mano a tanti amici lì a toglierlo, ma quando si legge è veramente un problema. Altri tocca da fare dagli assiglietti, ti fa da aprire l'alluminio, puoi scaldarlo, eccetera. Io non ho mai avuto quel problema, perché ti ripeto, io avrei detto degli antichi cosi subito, senza avere il tempo, avevo buscio subito quello, il zingato grosso, molto grosso di schedo, a me. No, non ne fa, no, niente. Quando la Mantova 5, quando l'ho tolta da dentro, l'ha giocato di colpi, l'ha giocata pure perché gli ho messo un bullone a tenermi la ferma, e no, non gli ha fatto nulla, no, non l'ha gonfiato, niente, cazzo, che sennò lo massacreggia, infatti, no, ci vogliono i pali zingati in acciaio. Comunque un palo d'acciaio, palo rovescio, cazzo, 14 euro l'1 metro. Vabbè, l'acciaio non si labile. Quinto tu io, 2 metri. No, di Sirelli, guarda, prendi quello zingato da coso, da Giubiliato, da chiama a dire da porca miseria, da Guguzzi, chiama quello che c'è lì vicino alla Ford. Busi, Busa. Che vende tutta la roba idraulica, insomma, cose così. Ah, boh, non lo so, ho capito dove stai dicendo comunque. No, ho preso la Bricco, ma va benissimo, ha fatto vedere che mi ha sistemato l'antenna, sì, va bene, alla grande. Va bene, non bene, di più. Poi gli ho dato una bella passata di zingato, bomboletta da zinco, ed è perfetta. Per il momento è a posto. E lì adesso quando sarà gli tolgo quello che c'è, a chi lo tubo vuole il giamba, da voi chissà che ve l'aveva già fatto, esistivo. E gli compro quello un po' più grosso, quello da un pollice e mezzo, e lo sollevo 6 metri e tira quello un po' più in sopra, dai. Io da qui, da dove sono io, sa se lo vedo bene, quindi non ho nessun problema, però la volevo mettere, perché io non metto tiranti, non metto nulla, capito? Ce la prendo, è bloccata, così a muro e balla, già regge, però volevo mettere un palo un po' più grosso, dai. No, ma arrivi benissimo, Antonè. Se arrivi tu Bulugosi, Eugenio già, adesso vabbè, ho aumentato anche lui, è la verità. Io se mi aiuto arrivo meglio, dai, per come ero prima, che va bene. No, la mia è alta 4 metri circa, dai, quasi 4 metri. Sì, sì che va bene, è a voglia, ci mancherebbe altro. E Eugenio, non ce l'ha manco ben inteso, cosa, ma l'ha messo lui il palo? Boh, non lo so. No, non ho più sentito, no, vabbè, lui lo però, io porta miseria, perché molte volte è tardi, finisco tardi, è un casino, non c'è tempo di un accidente, e magari qualche volta accendo così, ma non c'è nessuno, oh vabbè, magari puoi fare una chiamata e qualcuno c'è, e io accedono quelli su e niente. E poi magari ascolto su altre cose e ti dimentichi che c'è tu rendi dietro. Adesso la ragione non lo già da un po' non si fa sentire, vabbè, pure tu lo stesso gli da un meno entrambi, da tanto. Ehi là! Quindi non so, prepara un po' quelle bombe, io pongo la cucina che stiamo andando in guerra, Ehi, già li prepareremo, non c'è problema. Ma voglio provare una cosa. Se è nata la commissione a parte, un'antennina minoretto, un'antenna minoretta, voglio quelle 5 sotto non arrivo. Esci a vedere. Mi senti? Sì, ti sento tu. Cappa, ma come arrivo lì? Allora, qui arrivi Santiago, sì, e la radio però bassa. Santiago 5? No, Santiago 6. Santiago 6, la radio però bassa, Sarà 4, do. Non è forte, vabbè, forse magari abituato a ascoltarti più forti. Vabbè, dai, magari pure Mattessi. Non era Mattessi cosa, no? No, arriva, beh, certo. Questo è migliore, vero? Questo è più forte di segnale di radio. Ma no, non è che se tipo sono Giambo, non è che non sia forse manco di radio, Chita. È che purtroppo è l'antenna minoretta che non rende assai. Che antenna è? Un occhio di cobro, di chi si Storm 27. Ah, sì, no, in lontananza non rende, forse magari in paese sì, ma ve la vedo nuova, l'avevo comprata nuova io, Molte volte facendo le prove con voi a Sassari non arrivava, non arrivi a voi. Già lo so, Buia. Andiamo. No, non c'è mai nessuno. Sono fatti male, no, grumbetto, mamma mia. Già mi bassa piano, forse come hai fatto troppo il forzo. Ma è così, Antonio, mi chiedi che un po' non ci vuole. Hai ragione, vai. Ma non so pubblicamente in un calcio, periodo. Ma so che Marco va a ruggire con la sai, no? No, guarda, io ti posso dire che non esco a chi non ha giù tempo di nuda. Però adesso non c'è possibilità, ti avrei mandato una foto di vino rosso, e forse pure di quello abbastanza volte che sono ordinato. Perché ho preso ancora freddo, c'è freddo la mattina, maledetto, la mattina freddo c'è il ghiaccio. E la sera quando brilliva tosta la musica guida, quindi la soluzione secondo me è un bel bicchiere di vino rosso, buono. Già mi buggia. Ma non rendi nulla il suo roccio di cobro, Cioè giusto così ma fate tendizi, dai, mi accurcanda, ma non è un granché di astro. Sì, no, vabbè, tranquillo, tu posso assicurare, no? Guarda, io l'avevo comprato nuovo, mi hanno detto un sacco di balle, ne ha già provato un bel di cose, e poi ognuno dice la sua, racconta, no, va bene, ragazzi, povero, comprato nuovo, l'ha già buccio e bugato, perché parlavo lontano, parlavo, il segnale non ce l'ha, detto, ma fanculo, cosa cazzo, di poco sono state, antenna, o antenna e basta. Invece per parlare in paese così già andava bene. Che paga, ma mi sa che la Juventus può farsi mettere alla fine dell'Inter 0-0. Aspetta un minutino solo che mi sposto. Appunto, dalla Ringo al sorroccio di Coburu già un bel di differenza. Capitolo. No, cosa? Dal roccio di Coburu alla Ringo è un bel di differenza, beh. Ah, non si va da sorroccio di Coburu, non si vede niente. Cappa. Vabbè, va tennino, giusto. Ma sai che ha dratto un po' di voce, che non a giocare in famiglia, che sono binocchi. Ascoltare già ascolto e già andare. Tu pensa che ti dà giù tutto? Un di vera cosa ti dà giù tutto? Con una parabola vecchia ti dà giù i picchi di inchive. Con dubbo. Vabbè, eccoci qua. Cappa, è colpa. Ti dà giù un vera sopra, no, che non te la cabeciuria. Una parabola vecchia ti dà grande cugliata. Rubaro era un aspetta di romperci il taglietto di oggi cotto in chibri Rubaro era di buccia con scimmie e poi in un'altra magari un'altra già si nagatta di cose andate a nivel pure di cose di la Grand Play antennini con scimmie e andate a un bel meglio di chissà. La gamba funzionava. Oh, vabbè, che va prima non veniva di queste cose, non veniva lì. Viso, vega là e non tirarsi. Si accontenta di venire la lampada in casa sua, dentro la goccia, in garage, io me le voci li intendo, no? Le dico, ma non la trattete, non ne vai nulla. Dalla ce la usa, no? Anche la settimana scorsa mi è capitato di sentire delle persone intanto cosa te ne fa? Io quando faccio una cosa che non ho tratto la piglia dopo, se è in ghide, cosa mi piace di fare? Non l'hanno tratto io, non l'ho tratto all'altro, no, piglia di là, cosa va? Non va niente che... Sì, non c'è discorso su quello, Ma se non ti piace, cioè, la peppina cosa fa? La dai, c'è una cosa che non andava bene, cioè che non mi tratti più, invece di una lampada. No, io pattini la lampada, cioè, sia da voi uno... cioè prendi il tempo perché non c'è tempo, non vedi se lo vedo ci sta, ma tenere la lampada in terra, la lampada così non trattarla non ha senso, è pressa, non ne vale nulla, dalla e si adratta la tutti digni. Ma io un bel ammazzare quanto non intendo un sacco di clienti che hanno quei baracchini vecchi, no? Che avevano l'ala 48 e cose, e via via andata al motocarro, andata a Rugamicino, andata a Rugoso. Lampadi, cioè, dire, ma dallo che qualcuno ormai così di vecchio si passa l'ora, boh, io non ne so guarda di mentalità che vale, cavolo. Già lo so, con quei clienti non ha voluto più, sta bene puro, ma io dico sempre una cosa. Sono sempre, come si dice, io ci sono tanti anni già qua, però cioè, se uno è la bassona in gamba, che non beve con nessuno, state tranquillo, si fa dei fatti suoi, si comporta già bene, io penso che frequenta duri tanti anni pure, perché da me mi sono con bel danno, cioè non ho mai smesso da quando ho ricominciato. Io penso così, cioè uno se si comporta già bene, non andava. No, su quello non c'è. Che è successo? Tutto quanto un problema dei grandi suicidi di computer, praticamente hanno mollato tutti. Io, c'è mica no che il produttore era bene, era meno un bel di voci nasciani di diffusione che era un casino che faceva prima chi c'ha, no insomma un casino che era in macchina, che era in casa, che aveva portatile, che aveva una cosa là, insomma tutto era un casino, che ne dici così, boh, mollato tutti quanti. E quindi non la sentire più nessuno, io pure, alla fine, vabbè, noi siamo buttati in ghiba, ma no, che a me il computer me ne frega proprio niente, la verità, sono cominciato attaccato via, dici io, così, no, niente. Però non viene nessuno, alla fine, tante cose che fa più la giurati, la verità è stato un errore darli, voglio delle cose nuove, comparati nuovi, qui l'antenna l'avevo regalata, anche altre antenne che c'avevo della macchina, c'avevo anche della macchina, va più di roba, va più un sacco di cose. Ma dice, vabbè, non è tratto, me la viene domandata, intanto non è tratto, e la giurata. Invece va, dall'anno passato in poi, metto qua da comparato ora tutto quanto, eccetera, perché alla fine è sempre un buon passatempo, dai, a me piace più riuscire a discutere così che sta più di tempo con il computer, la verità, Non mi attessi parere, secondo me il computer, la radio, e boh, non venne di cose che ce lo parere mio. Allora se ci dice ci abbi duri, l'applicazione, la radio deve essere radio, il baracchino deve essere baracchino. Ma no, per storia, io un momento che 30 anni fa era una confusione, la vedi, la vedi anche la cosa che ognuno ci appogliava così, a Boni, buca, buca microfono, buca la capsula, prova, Boni, vai, prova l'antenna, che c'hanno da venire, la buca, ne la vai, ne la vai, insomma, era anche un diversivo, dai, no, era una cosa bella, ripeto a chi